Europa 24. Un buon inizio di settimana da Gigi Donelli. La notizia con cui apriamo questo spazio europeo in realtà riguarda Germania e Stati Uniti, ma per il ruolo di Angela Merkel di fatto anche gli interessi dell'Unione. La Merkel infatti sarà a Washington il prossimo 14 marzo per incontrare Donald Trump. Nella bilaterale, ha annunciato il suo portavoce cyber, si affronteranno le relazioni transatlantiche e il G20 di luglio in Germania. I due leader hanno già avuto un colloquio telefonico nel corso del quale appunto il presidente ha invitato la cancelliera. Dalle pagine della Bild, il nuovo inquilino della Casa Bianca ha poi attaccato la Germania e la sua leader, definendo in particolare disastrosa la politica di accoglienza dei profughi e affermando che Berlino sfrutta l'UE tanto per creare un buon clima per l'incontro. Staremo a vedere. Oggi intanto nell'agenda è Consiglio Affari Esteri a Bruxelles, presente per l'Italia il ministro degli Esteri Alfano. Si è parlato di sicurezza e difesa da tempo. Federica Mogherini, alto rappresentante per gli affari esteri, la politica di sicurezza europea, ovviamente dell'Unione, e vicepresidente della Commissione, porta avanti questo dossier, un dossier complesso che di fatto lavora sul tentativo di coordinare l'azione esterna dell'Unione. Sentiamo un veloce commento della Mogherini all'uscita dell'incontro. Today we decided to establish a military planning and conduct capability. Military planning and conduct capability, quindi un ulteriore passo avanti, la capacità di pianificare delle operazioni di sicurezza militare al di fuori del territorio dell'Unione. Diciamo, questo è un po' il passo compiuto oggi. I lavori vanno avanti nel pomeriggio. Mogherini lo considera un buon segnale appunto per il cantiere verso una sicurezza comune che sta sostenendo da tempo. Invece su altro fronte, il via libera oggi è arrivato dell'Unione Europea al sostegno finanziario all'Ungheria per la costruzione di due nuovi reattori nucleari a Pax, la zona del Danubio. L'Ungheria ha deciso di investire nella costruzione della centrale e, come suo diritto, ha detto la Commissione. Il ruolo della Commissione è garantire che la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti di Stato sul mercato energetico sia ridotto al minimo, così il commissario alla concorrenza Margrethe Vestager. I due nuovi reattori che l'Ungheria aiuterà a costruire sostituiranno i quattro attualmente in funzione, che sono stati costruiti negli anni 80 e che oggi, pensate, forniscono circa il 50% dell'intera produzione di elettricità al paese, all'Ungheria. Sul terremoto, l'UE credo che ci può aiutare attraverso il fondo d'emergenza con una cifra intorno al miliardo. E intanto ringrazio Tajani per l'impegno che ha dimostrato su questo tema. Così il presidente del Consiglio ieri. Sentiamo allora il punto sulla situazione di questa vicenda che, come sapete, rientra direttamente in quelli che sono i conti complessivi dell'Italia nell'UE. Bruxelles ci può aiutare in due modi per i danni provocati dal sisma. Così Paolo Gentiloni ieri davanti a Pippo Baudo a Domenica In. Noi abbiamo fatto un conto e l'abbiamo mandato a Bruxelles che quantifica in 23 miliardi, pensate, 23 miliardi i danni di queste tre scosse di terremoto. E Bruxelles ci può aiutare in due modi. Il primo, c'è un fondo di emergenza in cui loro ci possono dare una cifra attorno a un miliardo, grosso modo. E saremo il paese, non è un titolo d'onore perché purtroppo deriva da una tragedia, il paese che avrà di più da questo fondo di emergenza europeo. In seconda istanza, Bruxelles, secondo il premier Gentiloni, ci può consentire di togliere le spese per il terremoto dai famosi conteggi europei. Gentiloni ha poi voluto pubblicamente ringraziare il neo presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani per l'appoggio all'Italia. Ed è stato proprio Tajani qualche settimana fa ad annunciare che la conferenza dei presidenti del Parlamento europeo ha deciso di organizzare una riunione proprio a Norcia in occasione delle celebrazioni del 60° anniversario del Trattato di Roma, che si terranno il 25 marzo nella capitale. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E infine Malta, Finlandia rispettano l'impegno ad accogliere i profughi da Italia e Grecia, mentre Ungheria, Austria e Polonia si rifiutano. Questo si legge tra l'altro nel piano d'azione, nel punto tappa, appunto realizzato dalla Commissione europea per rendere più rapido il rimpatrio dei migranti che non hanno diritto d'asilo. Quindi diciamo una situazione che non cambia da quella che nei mesi scorsi ha creato anche le tensioni tra i paesi, in particolare dell'est Europa e quelli del sud. Con questo direi che è tutto, adesso tutti convocati come sempre, noi ci risentiamo domani, un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.